A bordo campo di Dario Ricci. Dunque, gli appassionati di uno sport sostengono che quello sport è intrinsecamente migliore di un altro. Per me, tutti gli sport sono l'occasione in cui altri esseri umani ci spingono ad eccellere. Ora voglio che veniate tutti qui, prendiate un foglio di carta e vi mettiate in fila indiana. Forza, Mix, tiri fuori la grinta. Avanti, Piz. Faccia vedere quanto vale. Voglio che li dia ai suoi compagni, uno per uno. Avanti, cominci, Piz! Può lottare con scarse possibilità, affrontare i nemici impavido. Dalla voce mi sembra pavido! Faccia sentire che è davvero impavido! Può lottare con scarse possibilità, affrontare i nemici impavido! E adesso tiri! Ok, un altro! Beh, davvero indimenticabile quel film, L'attimo fuggente, in cui uno straordinario professore univa la passione per la letteratura e la poesia a quella per lo sport, e lo abbiamo appena sentito, il calcio in particolare. Beh, fossero così attivi i nostri studenti, i nostri ragazzi, i nostri adolescenti, saremmo davvero felicissimi. Non è purtroppo così, come confermano i dati di una ricerca recente della Società Italiana di Pediatria. Siamo lontani dai fasti degli anni 80 e 90 in questa direzione, e a testimoniarlo ci sono i numeri, in particolare quelli della ricerca relativa al 2013 della Società Italiana di Pediatria, che ha provato ad analizzare con criteri oggettivi, scientifici, il rapporto fra i bambini giovanissimi italiani e lo sport. Ebbene, i numeri non sono certo incoraggianti, perché l'abbandono precoce dell'attività sportiva da parte dei giovanissimi italiani comincia già ad 11 anni, a 15 anni meno di un adolescente su due pratica attività sportiva continuativa, a 18 pratica sport poco più di uno su tre. Ci sono tassi di sedentarietà tripli rispetto agli altri paesi europei, e qui la situazione è particolarmente grave, perché siamo anche dietro alla Grecia, ad esempio. Insomma, situazione davvero preoccupante. Ne parliamo oggi col primo dei nostri ospiti, che è Giovanni Corsello, proprio il presidente della Società Italiana di Pediatria. Benvenuto, professor Corsello, a bordo campo a Radio 24. Grazie, buon pomeriggio. Professore, beh, allora avete messo insieme dei numeri certo non incoraggianti, I nostri piccoli, i nostri bambini, ma anche i nostri adolescenti sprofondano più facilmente sul divano piuttosto che a causa della fatica sui campi dello sport. È proprio così, questa, diciamo, la raffigurazione che lei ha dato è in questo momento un po' la fotografia di questa realtà, che ci preoccupa molto perché esprime una tendenza progressiva dei nostri ragazzi e dei nostri adolescenti a fare meno attività fisica, meno attività sportiva, e a passare la maggior parte del tempo seduti in o magari di fronte a degli schermi, ai videogiochi, ai computer, e quindi con un doppio rischio: da un lato quello di fare meno attività fisica, meno attività motoria, e dall'altro quello di essere esposti un po' ai rischi della dipendenza da video, da web, quindi avere una minore quantità di relazioni interpersonali e di vivere una realtà un po' virtuale. Quindi ci sono questi due lati, queste due facce di una medaglia che ci preoccupano molto. Ecco, ci aiuti un po' a capire la situazione a livello europeo. A me ha colpito tra i tanti dati questo: nell'Europa dell'Unione restiamo ultimi per pratica, siamo 27esimi dopo Romania e Grecia. Con la Grecia, vale la pena sottolinearlo, comparazione precedente al tracollo causato dalla crisi ad Atene, che è stata sicuramente ancora più pesante di quanto accada qui da noi. Ecco, ma guardando all'Europa siamo proprio in zona retrocessione. Sì, siamo in zona retrocessione, purtroppo abbiamo anche i maggiori tassi di sovrappeso e di obesità nei paesi europei, quindi a conferma che c'è una relazione diretta tra riduzione dell'attività fisica, dell'attività sportiva, e aumento dei tassi di sovrappeso e di obesità, e noi abbiamo i tassi che vanno tra il 38 e il 40%, e anche qui sono tra i più alti d'Europa. Questo è un segnale che sicuramente di allarme, che ha spinto noi come Società Italiana di Pediatria a occuparci del problema e a cercare di una di intervenire coinvolgendo le famiglie, coinvolgendo i media, coinvolgendo le istituzioni, perché si tratta qui di intervenire su degli stili di vita complessivi, globali, perché noi dobbiamo chiederci perché i nostri bambini e i nostri ragazzi fanno meno attività fisica, meno attività motoria. Ecco, ci aiuti, glielo chiedo io a lei, visto che avete studiato il problema, sinteticamente le cause, perché questi ragazzi sprofondano sui divani? Le cause sono diverse. Intanto c'è sicuramente una componente di tipo urbanistica. Le nostre città non sono a misura di bambino, non ci sono spazi verdi adeguati per promuovere l'attività fisica e fare attività motoria. Quindi sicuramente c'è una componente legata all'organizzazione delle nostre città e dei nostri, e spesso anche dei nostri paesi. Quindi non ci sono degli spazi che con sicurezza possono ospitare i bambini e i ragazzi per fare attività motoria e sportiva. Poi c'è anche la scarsa consapevolezza dell'importanza che ha l'attività fisica per l'equilibrio fisico e anche psicologico dei bambini. Fare attività fisica, fare attività motoria significa migliorare non solo la situazione psicologica del bambino, ma anche il ritmo sonno-veglia, le performance scolastiche, i molti distretti metabolici, biologici. Quindi si tratta di, attraverso l'attività fisica, di migliorare la qualità della salute. Quindi non è solo prevenzione dell'obesità, ma anche miglioramento della qualità della salute di questi bambini e ragazzi. E su questo non c'è un'adeguata informazione, un'adeguata consapevolezza. Ecco, questo mi sembra, professore, mi perdoni, un punto interessante, perché noi in Italia, noi spesso abbiamo associato lo sport, cioè si fa sport quando stai male, ti fa male la schiena, allora devi far nuoto, ti viene la scoliosi, devi fare l'attività sportiva, perché lo sport è l'ultima spiaggia che ti cura. Il concetto, da quello che lei mi dice, è leggermente diverso, è che se tu lo sport lo fai con buona regolarità, forse quella schiena non si piega mai, insomma. È proprio così, lo sport serve per promuovere la salute, per promuovere il benessere, non va visto come una soluzione quando ci sono già dei problemi clinici. Quindi è un effettivo stile di vita che garantisce dei livelli di salute migliori nei bambini, nei ragazzi e poi anche negli adulti di domani, perché quando lo stile di vita che prevede un'attività fisica e motoria durante l'età evolutiva, di solito questo si mantiene anche nell'età adulta e quindi innesca un meccanismo positivo che avvantaggia anche l'adulto. Ecco, le chiedo ancora, ma tutte queste campagne informative, il fatto che per esempio noi media comunque di questo argomento parliamo come stiamo facendo adesso, quanto effettivamente incide? Perché adesso alcuni dei temi che stiamo snocciolando non sono straordinariamente nuovi, spesso diciamo son temi che arati, dibattuti, discussi ormai da anni. È possibile che l'italiano, compreso pure noi, non capiamo? Quello che è mancata probabilmente è l'alleanza di tutti quelli che ruotano intorno a questi problemi, perché noi siamo convinti che bisogna informare e coinvolgere la famiglia, bisogna coinvolgere la scuola, le istituzioni scolastiche, spesso anche lì magari qualche ora sporadica di attività di educazione fisica viene considerata sufficiente, ma sicuramente non è sufficiente, perché l'attività fisica motoria deve essere regolare, continuativa, quotidiana. L'attività sportiva deve essere almeno espletata 3 o 4 volte alla settimana e deve tenere conto anche della situazione complessiva del bambino e del ragazzo. Quindi non si possono sovraccaricare i bambini e i ragazzi di compiti o di impegni che implicano sedentarietà a discapito e sacrificando invece l'attività fisica, che fa parte integrante anche degli obblighi scolastici. Quindi bisogna mettere insieme tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della salute del bambino e del ragazzo, perché lavorino in modo sinergico, perché lavorino con un obiettivo che sia un obiettivo condiviso. E non ultimo, bisogna anche considerare che spesso gli adolescenti, l'attività sportiva viene considerata un po' in una prospettiva eccessivamente competitiva, agonistica. Ecco, non cerchiamo il campioncino. Appunto, perché questo è importante, perché molti adolescenti poi lasciano l'attività sportiva perché si sentono un po' esclusi da quella fascia è l'Italia che può andare avanti e può competere. Questo noi invece, ecco perché abbiamo bisogno anche di coinvolgere la società sportiva e le istituzioni che fanno sport, perché il diritto allo sport è un diritto che prescinde dai risultati, dai traguardi, dai successi, va garantito a tutti anche in momenti di crisi socio-economica, perché sicuramente anche un po' i costi spesso sono dei fattori che possono incidere nel favorire l'allontanamento dall'attività sportiva. Quindi, come vede, il problema va affrontato su diversi fronti e c'è bisogno dell'intervento di tutti. Allora, Giovanni Corsello, presidente della Società Italiana di Pediatria, grazie intanto per questi consigli, per questa analisi e per essere stato nostro ospite oggi. E in bocca al lupo, e non perdiamo la speranza, insomma, no? No, continuiamo a lavorare con passione ed energia. Bene, grazie al presidente Corsello. Ora una breve pausa, poi ancora insieme qui a Bordo Campo continuiamo a parlare proprio di italiani, sport e sedentarietà con un ospite d'eccezione. A Bordo Campo. C'eravamo tanto amati, sì, perché il rapporto tra gli adolescenti italiani e lo sport e l'attività sportiva praticata sul campo sembra essere davvero ai minimi termini rispetto solamente a quegli anni 80-90 che, ad esempio, anche nella sola atletica leggera ancora sfornavano campioni ad ogni livello. Ebbene, i dati della Società Italiana di Pediatria sono inquietanti in questo senso. Il drop out, l'abbandono precoce, comincia già a 11 anni. A 15 anni meno di un adolescente su due pratica attività sportiva continuativa, a 18 la pratica poco più di uno su tre. Tassi di sedentarietà tripli rispetto agli altri paesi europei. Gli unici in controtendenza sono i bambini dai 6 ai 10 anni, ma pure questo è un dato che ora continueremo ad analizzare con quello che è il nostro ospite d'eccezione della puntata di oggi qui a Bordo Campo su Radio 24. Benvenuto a Mauro Berruto, allenatore della nazionale italiana maschile di pallavolo. Benvenuto coach. Grazie mille, grazie a voi dell'invito, un piacere provare a dare un contributo a un tema così davvero così importante. Beh, prima di noi coach ci ha pensato addirittura il premier Enrico Letta in persona, perché l'ha nominata coordinatore e regista di Destinazione Sport, il progetto che dovrà mettere a punto una legge quadro proprio per l'attività sportiva, soprattutto di base in Italia. Quindi direi che il discorso che andiamo a sviluppare insieme è forse il primo obiettivo di Destinazione Sport. Assolutamente sì, Destinazione Sport ha due obiettivi, uno nel lungo termine che è quello che lei citava, diciamo che l'obiettivo sfidante, ambizioso è provare a costruire un percorso che possa portare in quella direzione, cioè quella di provare a definire una legge quadro sullo sport italiano che oggi non esiste. Però Destinazione Sport ha anche un altro obiettivo molto ambizioso, che è quello di dimostrare di non essere un tavolo solo di ricerca o solo di teoria, ma un tavolo che vuole proporre delle azioni, perché a questo gruppo di lavoro è affidato il compito di provare a contribuire in un obiettivo importante, che è quello di provare a cambiare un po' la mentalità, no? Il modo in cui nel nostro paese si legge lo sport, o come ci piace dire, la cultura del movimento. Quindi per raggiungere questo obiettivo occorrerà passare attraverso delle cose pratiche, insomma delle azioni da mettere in campo nel modo più efficace, nel tempo più breve possibile. Ecco, direi che la prima cosa da fare è alzarsi dal divano, no? Perché almeno a sentire i suggerimenti dei pediatri è lì che rischiano di sprofondare i nostri ragazzi. Un dato mi ha colpito molto e credo che lei, da sportivo professionista, da allenatore professionista, può aiutarci a leggerlo, e mi sembra inquietante, cioè il fatto che nell'attività sportiva i bambini dai 6 ai 10 anni il numero dei praticanti in qualche modo sia in costante aumento e che vada invece a scemare poi dagli 11 anni in poi. È vero che c'è il passaggio di ciclo scolastico dalle elementari alle medie, l'impegno dello studio eccetera eccetera, però si può nascondere dietro un dato di questo tipo anche il fatto che quando la famiglia vede che non c'è in casa un campioncino, allora dice addio allo sport perché tanto non serve più per arrivare a diventare il Totti del Piero o il grande campione di basket della situazione? Ma può darsi. anche se io onestamente credo che questo motivo per giustificare il dropout in quell'età lì non sia percentualmente il più importante. Secondo me questo dato deve far sorgere una bella domanda, per esempio nelle federazioni sportive, no? Nel senso che quell'età in cui i ragazzi dimostrano queste ricerche, abbandonano lo sport, è proprio quello in cui si incomincia a fare le cose un po' più seriamente, nel senso che incominciano i primi campionati strutturati, no? Le prime attività agonistiche vere e proprie, gestite naturalmente dalle singole federazioni di appartenenza. Quindi bisogna anche fare una profonda riflessione proprio dal punto di vista tecnico, se le attività propedeutiche che di solito si fanno nel periodo della scuola primaria, quindi diciamo fra i 6 e i 10, 11 anni, siano davvero propedeutiche oppure non ottengano l'effetto contrario, cioè quello di allontanare poi dei potenziali, per carità, anche qualche potenziale campione, ma qui il tema è molto più importante e molto più profondo, parliamo di cultura del movimento di un paese, quindi di tutta una serie di implicazioni che vanno dai costi che il sistema sanitario nazionale dovrà sostenere, no? Se questi dati di inattività fisica, questa pandemia per esempio di obesità infantile che abbiamo in alcune parti del nostro paese, ha dei numeri veramente tragici, impressionanti, sono soggetti che destinati in qualche maniera a sviluppare delle patologie che hanno poi un impatto sul costo. È inevitabilmente un costo. Le chiedo, coach, nella sua carriera lei ha avuto anche la fortuna di poter fare un'esperienza, varie esperienze all'estero, soprattutto anche come allenatore della Finlandia, no? Direi che, ecco, qual è in questo senso l'esperienza che ha preso sul campo in uno dei paesi che tradizionalmente è più all'avanguardia proprio nella cultura sportiva? Sì, io ho passato 6 anni della mia vita in Finlandia ho avuto modo di percepire, proprio di toccare con mano che cosa si intenda con cultura del movimento, nel senso che prima di tutto c'è un ruolo fondamentale della scuola che davvero insegna questa disciplina, e mi riferisco alla cultura del movimento, quindi non solo allo sport agonistico ma alla necessità della pratica sportiva, quella fatta, no? non quella guardata come succede un po' da noi, è un tema che nella scuola ha la stessa dignità delle discipline più importanti, quelle che noi riteniamo più importanti, come la matematica, come la letteratura, no? Insegnare a praticare uno sport e a muoversi ha la stessa valenza, e questa è una lezione che noi dobbiamo imparare, cosa che poi si percepisce quando uno cammina nelle strade di Helsinki, e io lo faccio sempre notare questo perché credo che sia illuminante questo esempio, e trova in condizioni naturalmente climatiche estremamente più svantaggiose di quello che abbiamo noi, mi riferisco al buio, al freddo, eccetera, migliaia di persone di mezza età o di anziani che per esempio praticano una disciplina molto semplice ma molto salutare che è il Nordic Walking, no? Hanno un'incidenza nel contenimento, ritorno a quanto dicevo prima, dei costi che il sistema sanitario nazionale sostiene. Coach, entriamo nella stanza dei bottoni di Destinazione Sport, si è cominciato a lavorare nel novembre scorso, a che punto siete? Ma guardi, siamo spero in prossimità di un punto chiave, stiamo lavorando alla prima di queste azioni che citavo, non ho fatto a caso dei riferimenti perché il primo obiettivo è proprio proporre un progetto pilota molto importante con uno strumento anche finanziario nuovo per il nostro paese, teso a dimostrare come la cultura del movimento possa far risparmiare il Servizio Sanitario Nazionale. Dall'altra una commissione giuridico-finanziaria che sta studiando un modello che speriamo possa essere molto innovativo per andare alla ricerca di un elemento che ahimè oggi è anche una delle cause del dropout, per esempio della pratica sportiva nei giovani, che è l'aspetto economico, cioè l'idea di come finanziare questa progettualità, e stiamo cercando di sviluppare un'idea che mi auguro possa essere di grande impatto e possa poi anche essere trasportata in altri settori oltre. Così ci fa venire un po' l'acquolina in bocca, ci dica qualcosina in più, coach, abbia pietà di noi che alla fine sempre giornalisti siamo. Ma guardi, poi insomma credo che il mondo finanziario si stia muovendo in maniera interessante in alcune parti del mondo, mi riferisco soprattutto al mondo anglosassone, con un'esperienza che per me è estremamente affascinante, si chiamano social impact bonds, questi strumenti finanziari. Fondamentalmente sono un meraviglioso esempio di interazione fra il soggetto pubblico, l'istituzione, che naturalmente deve finanziare dei progetti e oggi ne ha grande difficoltà, affinché questi progetti producano un risparmio, e questo è il caso naturalmente dello sport, per esempio nel sostegno terapeutico di alcune patologie, e questo supporto finanziario può arrivare da delle realtà imprenditoriali private che, come dire, con uno strumento molto innovativo non solo finanziano la possibilità di questo progetto, ma tutelano anche il proprio capitale. In sostanza, diciamo che il risparmio ottenuto da parte della pubblica amministrazione permette di restituire il capitale a chi l'ha investito. È un modello che sta funzionando nel mondo, ci sono alcuni, non tantissimi, alcuni progetti pilota splendidi in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, in Israele, in Olanda. Recentemente a dicembre è stato presentato un social impact bond proprio con, addirittura con un tema ancora diverso, quello della disoccupazione giovanile, e io ci credo veramente fortissimamente e mi auguro che saremo presto, con presto mi riferisco a un ordine temporale di qualche mese, non di più, pronti a proporre un modello italiano che possa utilizzare questo strumento finanziario e che metta lo sport al centro delle cose che fa. Chi l'avrebbe detto, coach Berruto, dal disegnare schemi sulla lavagnetta l'avrebbero poi costretta a far di conto con matita e block notes, ma d'altra parte il ruolo a cui è chiamata la obbliga anche a questo. Senta, però destinazione sport è svincolata dalla durata del governo, perché l'aria che tira la sappiamo tutti, ha avuto garanzie in quest'ottica oppure? Ma guardi, Distanza Sport è un progetto voluto dalla Presidenza del Consiglio che ha istituito questa squadra, difatti io faccio assolutamente indegnamente l'allenatore di questa squadra, che è fatta da professionalità, da personalità estremamente diverse. È entusiasmante davvero questo gruppo di lavoro per la differenza delle persone che lo compongono. La bellezza, e mi auguro quindi anche la durata di questo progetto voluto dalla Presidenza del Consiglio, credo che sia trasversale, no, alla durata di questo governo, che ovviamente ci auguriamo sia lunga e stabile e possa portare grandissimi benefici. Diciamo che la continuità potrebbe essere in questo caso anche garantita dal CONI, che è un po' il luogo dove noi ci troviamo, quindi la sede dove questo progetto ha vita e che naturalmente ha una sua stabilità e un suo percorso che conosciamo bene a cadenza quantomeno quadriennale. Allora la prossima scadenza quadriennale, so che non riesce a dimenticarsela, ma gliela ricordo, il Rio 2016, per cui l'altro obiettivo parallelo a destinazione sport è quell'oro olimpico che davvero auguriamo a lei, alla sua squadra e quindi a noi tifosi italiani. Intanto, coach Mauro Berruto, grazie per essere stato ospite qui a Bordo Campo e in bocca al lupo per il suo lavoro da CT della Nazionale Azzurra e per il suo lavoro di allenatore anche di destinazione sport. Grazie mille, anche perché giustamente il mio lavoro principale è quello che è in cima ai miei pensieri, naturalmente rimane quello di fare il tecnico della nostra nazionale, che è partita con un progetto di grande rinnovamento dopo Londra e, come ha detto giustamente lei, guarda al presente, perché insomma, tanto per fare un esempio, l'anno prossimo ci sarà il mondiale, quindi dobbiamo essere pronti, ma guarda sicuramente con un respiro un po' più ampio a questo percorso che ci separa ancora dai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro. Anche per questa puntata di A Bordo Campo è tutto, grazie a Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito www.radio24.it, scaricare anche il podcast, dialogare con il nostro blog e scriverci alla mail abbordocampo@radio24.it. Ora spazio a tutti i convocati weekend, A Bordo Campo torna domenica prossima sempre alle 16.30 e in replica il sabato mattina alle 6.15. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.